Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Regolarità non significa solo rispetto delle norme, ma anche efficienza e qualità. Il presente, tanto più il futuro di un settore, non possono che passare da questa strada. Vale tanto più per l'autotrasporto, un mondo complesso, a suo modo frastagliato, che nel tempo ha assunto dimensioni non sempre codificate e codificabili. Da 2 anni l'albo degli autotrasportatori ha posto la regolarità al centro della sua azione. Garantire la regolarità di un settore vuol dire innanzitutto vagliare la posizione di chi ne fa parte. Al 22 febbraio scorso le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori erano 123.121. In realtà si tratta di un dato solo formale. 23.195 di queste infatti non risultano più iscritte alla Camera di Commercio e quindi di fatto non esercitano e non potrebbero esercitare l'attività di trasporto. Nei confronti di queste aziende l'albo ha avviato la procedura di cancellazione. In 4.488 casi l'atto è già stato formalizzato. Un'altra campagna di verifiche riguarderà le imprese di autotrasporto che potremmo definire virtuali, perché risultano in attività ma non possiedono veicoli. In tutto sono poco meno di 16.000. Una volta completate, diciamo così, queste operazioni di pulizia, si stima che il numero delle imprese di autotrasporto si assesterà su quota 90.000, cioè il dato che corrisponde in sostanza al numero degli attestanti di regolarità rilasciati nel 2016. Di queste, la maggioranza è costituita da aziende di piccole dimensioni. Sono poco più di 45.000, praticamente la metà. E lungo la strada della regolarità, da poco più di un anno è operativo il portale della regolarità delle imprese, un database che qualsiasi cittadino può consultare direttamente accedendo al portale dell'albo per verificare se un'impresa di autotrasporto è in regola sotto ogni profilo. Qualora decidesse di affidare un servizio ad un'azienda che non risulta tale, al di là del fatto che abbia compiuto o meno la verifica, in qualità di committente sarà corresponsabile di eventuali illeciti che dovessero essere riscontrati durante il servizio. Per fare il punto sull'operatività del portale e per delineare le attività future dell'albo abbiamo intervistato il presidente del comitato centrale, Maria Teresa Di Matteo. È stato un lavoro estremamente complesso perché si è trattato di interconnettere delle banche dati di varie amministrazioni che avevano delle caratteristiche specifiche e chiaramente tarate sulle esigenze di ciascuna amministrazione. Quindi ritengo che già la programmazione e l'implementazione del progetto sia stato un lavoro complesso e difficile. Adesso stiamo procedendo alle verifiche. Abbiamo fatto già un lavoro per la pulizia del portale e stiamo andando avanti adesso sulle verifiche su veicoli zero. Fatto questo e col completamento delle interconnessioni della banca dati che avverrà a brevissimo con l'Unilav, potremmo portare avanti una verifica puntuale sull'effettiva regolarità. Centro studi e osservatorio sono le nuove sfide? Sono le nuove sfide. Mi sembra che l'albo si debba qualificare per un'attività alta, significativa per il mondo dell'autotrasporto, che serva a orientare delle scelte politiche e di andamento del settore efficace. A rivendicare il principio della regolarità come fattore imprescindibile a favore di un mercato sano, le associazioni degli autotrasportatori sono in prima linea da tempo. Tra queste Assotir, sentiamo il segretario generale Claudio Donati. Significa limitare quel fenomeno devastante che in Italia è imperversa di concorrenza tra imprese che rispettano le regole contributive, pagamento del personale e quant'altro, rispetto a imprese che questo non lo fanno e quindi sono in grado per questa ragione di fare prezzi assolutamente fuori mercato. Quindi l'iniziativa dell'albo da questo punto di vista è molto importante, noi l'abbiamo sostenuta da subito e però pensiamo che si debba arrivare ad un prodotto da parte dell'albo, a un portale della regolarità che sia effettivamente in grado di distinguere con molta chiarezza e molta semplicità le imprese che stanno in regola dalle imprese che non lo sono. E questo primo passo ci sembra molto positivo, io mi auguro che il progetto venga realizzato entro l'anno di mandato che grosso modo ancora resta al Comitato Centrale. In Italia sono 770.000 i possessori della CQC, cioè il certificato che abilita alla guida di mezzi adibiti al trasporto di merci. Non vuol dire che questa cifra corrisponde al numero effettivo di chi fa il mestiere di autista di camion. Una parte, infatti, di questi 770.000 è costituita da persone che hanno l'abilitazione ma non svolgono l'attività. Non molto tempo fa questa cifra era superiore. Negli ultimi 10 anni, infatti, i possessori della CQC sono diminuiti di 182.000 unità e contemporaneamente l'età media è salita. Nasce da qui l'iniziativa tesa ad avvicinare i giovani al mestiere, promossa dall'Albo degli Autotrasportatori e dalle associazioni, iniziativa della quale abbiamo dato conto nelle scorse puntate. Sulla situazione, sulle prospettive occupazionali del settore, abbiamo intervistato Amedeo Genedani, numero uno di Confartigianato Trasporti, che pochi giorni fa è stato riconfermato per il prossimo biennio alla presidenza di UNATRAS, l'Unione delle Associazioni di categoria. Mi sembra semplicemente che in Italia purtroppo ci sia una mancanza di autisti e soprattutto dato dal fatto che negli ultimi anni, oserei dire nell'ultimo decennio, abbiamo importato, se lo possiamo dire, molti autisti dai paesi dell'est, quindi le CQC non le hanno prese in Italia, automaticamente non risultano. Sicuramente questo numero vuole anche defalcato da quelli che sono il conto proprio, perché tante patenti superiori magari hanno dei camion in conto proprio, o l'artigiano classico che ha la patente si è fatto anche la CQC. Quindi c'è bisogno, un bisogno importantissimo, anzi, che sanguina, di implementare le CQC e quindi le patenti agli autisti italiani, anche perché noi italiani vogliamo assumere italiano, soprattutto perché questi autisti che oggi vogliamo preparare, quindi abbiamo lanciato col Comitato Centrale questa formazione per questi nuovi autisti, deve essere sicuramente una formazione importante e far uscire degli autisti che sono pratici e dei nuovi veicoli e soprattutto formati in modo positivo. Il mestiere è molto cambiato, eppure c'è una percezione di questa attività ancora tarata su vecchi schemi. Questo forse tiene un po' distante i giovani. No, a mio avviso non è tanto questo, ma il giovane che deve affrontare, o magari chi gli piace il camion o chi vorrebbe affrontare questa attività, non è in grado di farlo, anche perché bisogna investire circa 6.000 euro per conseguire le patenti, quindi l'aiuto principale è la parte economica che stiamo dando, che porterà a casa anche il risultato, però come dicevo prima, di autisti formati, soprattutto dal punto di vista dell'informatica, eccetera, eccetera, anche perché i veicoli oggi, oserei dire, sono connessi, come i ragazzi giovani sono connessi, quindi bisogna essere connessi sia sul camion che con la persona. E anche in termini di sicurezza stradale è un passo avanti. È sicuramente un valore aggiunto, perché l'autista di una volta aveva il problema di imparare a fare la doppietta e quindi perdeva tempo a cambiare. Oggi ci sono tutti i cambi automatici, tutti i sistemi elettronici, come dicevo prima, veicoli connessi, e automaticamente ci vuole un professionista che sia un professionista, che sia pratico, con collaborazione anche dei costruttori, si fa pratica anche sui veicoli, e quindi dovrebbero uscire degli autisti che a mio avviso sono volti sicuramente a una maggior sicurezza, una maggiore attenzione a quello che fanno e alla professione che svolgono. Era Amedeo Genedani, presidente di UNATRAS, e UNATRAS per il 18 marzo ha annunciato una giornata di mobilitazione e protesta per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e del governo su questioni decisive per la sopravvivenza delle imprese di autotrasporto, così recita la nota diramata dall'Unione delle Associazioni. Le iniziative saranno decise a livello locale. Uno sguardo all'estero, andiamo in Svizzera. Secondo un sondaggio, l'88% degli intervistati vorrebbe un aumento dei pedaggi per i mezzi pesanti, allo scopo di limitare il traffico sulle autostrade a favore dell'intermodalità e quindi di un sistema di trasporti sostenibile. E sempre dal fronte della riduzione dell'impatto ambientale, la Germania da anni promuove l'utilizzo di veicoli elettrici nella logistica urbana. A Dortmund, uno studio ha focalizzato i risultati della sperimentazione avviata tra il 2011 e il 2015. Il dato più significativo riguarda i costi di esercizio. Per un veicolo elettrico sono inferiori del 65% rispetto a quelli sostenuti per un mezzo diesel. Il rapporto ha sottolineato che al momento a frenare il ricorso ai mezzi elettrici contribuiscono l'eccessivo costo dei veicoli e le prestazioni ancora troppo limitate delle batterie. Torniamo in Italia lunedì prossimo, 13 marzo, incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti delle concessionarie autostradali. L'agitazione è stata indetta da tutte le sigle di categoria contro, si denuncia in una nota, il mancato rispetto dell'accordo siglato a febbraio al Ministero delle Infrastrutture sulla garanzia di un presidio fisico H24 nelle stazioni autostradali. Con hashtag Autotrasporti oggi mi fermo qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì 13.45 da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.